4 mattino di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. E via, gira pure. 100, ricordiamolo, che la settimana numero 100 per la riforma elettorale, il nostro Benigni che da 15 anni disse questa, 100, come ok, il prezzo è giusto, settimana numero 100. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Partigiano, portami via! Perché mi sento di morire, e se muoio! È grave il quadro della situazione. Allora, anziché ogni giorno sentire faccio un po' di assunzioni e quindi sembra che il mondo riprenda, il giorno dopo scoprire che invece la situazione è messa peggio di prima, dovremmo seriamente fare i conti con un quadro drammatico. Seppellire lassù in montagna è stato l'ombra di un vecchio. Ma mi colpisce questo scadimento, perché io non arrivo mai a banalizzare o offendere le altre persone. Posso non essere d'accordo, naturalmente, posso avere anche giudizi severi, ma le persone le rispetto. E ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Io di solito i soprammobili a casa mia li spolvero e li tratto anche abbastanza bene. Secondo, detto da una persona che sta tentando di controllare la televisione e uno che fa degli slide della comunicazione, a volte più dell'immagine che della sostanza, il suo modo di vita, lo trovo un po' singolare. Però non voglio mettermi a questo livello, perché i problemi da discutere sono troppo seri. Ce l'aveva con Renzi, che gli ha dato del soprammobile in TV, un po' come Salvini. Infatti ieri Landini era a 8:30 da Lilli Gruber e poi era, mi dicono, anche da Luisella Costamagna a Dagon Channel. E Salvini era, dov'era? A Ballarò di martedì, non lo so, perché ho visto 1992, adesso faccio. Dov'era? Peter, guardami, dov'era? Tu cosa guardi alla sera? Non guardi Ballarò? Non guardi di martedì? Ma porca mia, c'era Italia e Inghilterra, il calcio. Un uomo medio, se non mediocre, il calcio. Dov'era Salvini ieri? Ditemelo voi al 349-238-6666. Lorenzo Nespoli è scappato dallo studio per non rispondere come alle interrogazioni in quinta elementare. No. Sa tutto Paola Saluzzi, lo sai tu Paola. Dov'era Salvini ieri? Allora, posso dire una cosa? Sì. Per solidarietà con Lorenzo Nespoli, non lo so. Non lo sa, bravi, continuiamo così nell'ignoranza crassa, nell'ignoranza crassa. E continuiamo. Lo sa. Ma queste interrogazioni di prima mattina non si possono mica fare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lo sa, fatemelo chiedere a Luca Dini, direttore di Ventifer. Luca, dov'era ieri Salvini? No, pare fosse a casa sua. No. Ma come? No, me l'hanno detto che era in TV. È l'unica sera dell'anno in cui è a casa sua. Era a casa sua? Non lo so. Attenzione, ma no, ma l'hanno intercettato. Me l'hanno segnalato, era in TV. Ecco, è tornato Lorenzo Nespoli, fa finta di niente. Dov'era Salvini ieri sera? A Ballarò, a Di Martedì. A Di Martedì, vedi, sa tutto. Era Di Martedì. Figurati se si lascia sfuggire una serata in TV. Luca, anche tu. Bravo. Speravi, invece. Era un auspicio quello del direttore. Ma no, invece Renzi dice che è meglio che vada in TV, perché così gli italiani lo conoscono. Vabbè, non si capisce più niente se sia meglio stare a casa o sia meglio andare in TV. Nel dubbio vanno in TV. dal 2015. Oh, evviva le rosse, no. Torna, ma diventa che evviva la Paola, con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri pettizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Pensavamo, ma è meraviglioso, pensavamo di averla scampata. Non posso iniziare senza questo. Non si può iniziare senza questo. Vi adoro. Pensavamo di averla scampata oggi. Oh, intanto ve lo dico già, voi la scamperete settimana prossima, cioè fate quello che volete, ma io domenica vado in ferie e per una settimana non ci sarò. Quindi... E questa è una notiziona. Questa... Il superalino che va in ferie. Certo. Tra l'altro io, essendo oggi, lo dico preventivamente, il primo aprile, pensavo di farvi un pescione d'aprile, ma poi sono uno che gli scherzi non sono in grado di farli, e quindi ho detto vabbè, ma poi dopo mi sgamano subito, sono incapace, e quindi niente, è così, mi sono autorovinato il primo d'aprile. Paola, non lo so. Ci siamo rimasti malissimo a non avere il tuo pesce d'aprile. No, volevo fare tipo una di quelle cose domenica. Non è che vado in ferie, ma mi licenzio, vado via. Non ci avrebbe creduto nessuno. Ma non è vero. Guarda, invece... te do una notizia, te la do ufficialmente. Non ci avrebbe creduto nessuno. Ma perché? Vabbè, dai, apriamo il Parlamento. Su, che è la centesima settimana decisiva per la riforma elettorale. Adesso vado a prendere un caffè. Quindi se mai ci vediamo, attenzione, perché ci sono grandi movimenti, la Boschi è data forse a Palazzo Chigi al posto di Del Rio come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, perché Del Rio dovrebbe andare a sostituire Lupi. Questo succede forse tra oggi e domani, questa è la notizia che viene data dai giornali. Io però vorrei sapere da Luca Dini se ha mai assaggiato il vino di D'Alema. Ma per carità. Ma come? Ma perché? Che male? No, magari è buonissimo. Ma non so, voglio vivere. Preferisco vivere. Preferisci vivere. No, perché D'Alema continua, oggi fa una difesa sul Corriere della Sera, noi ne parleremo alle 8:15, però al di là del vino di D'Alema, la questione è abbastanza seria, questa inchiesta. Io ho come il sospetto che il nome di D'Alema sia stato un po' buttato. Non lo devo difendere io, per carità, e qui sappiamo che No, giusto. Però sia stato buttato un po' lì per finire in prima pagina sui giornali. Lui lo dice chiaramente oggi al Corriere. Non sarebbe la prima volta, voglio dire. Ce ne accorgiamo adesso. È spesso così. Beh, però è abbastanza scandaloso se davvero è così, nel senso che lui dice al Corriere dell'arresto del sindaco di Ischia non avrebbero scritto i giornali se non avessero messo D'Alema in prima pagina. È un po' così, Luca? Ma forse ne avrebbero scritto lo stesso. Certo, così è più facile. Molto più facile, però non è la prima volta. Secondo me è uno dei veri scandali di cui si dovrebbe occupare. Purtroppo è difficile, complicato e anche un po' rischioso, perché quando vai a parlare di certe cose in Italia, insomma, i giornalisti sono la casta, ma insomma, forse c'è un altro un pochino più. Cioè, chi? I magistrati? Beh, insomma, cioè, si potrebbe discutere di certi metodi, di certe cose lasciate uscire regolarmente, di certe intercettazioni lasciate trapelare regolarmente, insomma. C'è un metodo evidentemente sarebbe ipocrita non dire che c'è una forte componente di marketing nel modo in cui escono le informazioni. Che per carità, nell'era della comunicazione va bene, ma quando si tratta di un'inchiesta non andrebbe benissimo. Non so, tu Paola Saluzzi, il problema è che ce ne accorgiamo solo quando esce fuori il nome di uno come D'Alema, che a me dispiace tantissimo se è stato tirato in ballo ingiustamente, e non dovrebbe succedere comunque, però è una persona potente. Il problema è quando escono, magari come negli effetti collaterali, persone, vite devastate, distrutte, sputtanate per sempre. Sì, di persone magari non famose, non sono neanche in grado di difendersi, come fa D'Alema. Magari un po' famose ma meno potenti. Io mi ricordo Valletto, cioè sono successe cose che... E come no, il PM era lo stesso, tra l'altro, appunto, in Woodcock. Tu Paola, che idea ti sei fatta di questa cosa? Dunque, sottoscrivo, e sembra che sia troppo facile dire così, sottoscrivo pienamente quello che avete detto finora, e sarà motivo di revisione alla stessa stregua per cui insomma se ne parla perché ci sono nomi importanti e talvolta di persone non soltanto importanti ma evidentemente molto potenti, sarà oggetto di revisione credo a breve perché si rischia di immaginare che poi la cosa più grave e più importante corrisponda a quel nome. Mentre invece la cosa più grave e più importante, stabilito che si deve lavorare sulla base di quello che la magistratura farà e dirà, perché ovviamente nessuno è accusato, nessuno è colpevole fino in fondo, puoi accusare una persona, poi si deve vedere se è colpevole, ma il fatto grosso è un altro, cioè? Non è il nome dell'uomo politico così famoso e così importante, la sostanza è un'altra, insomma... L'argomento pesante su cui lavorare è ancora un altro, sono delle evidentemente è un metodo sbagliato di gestire la politica che va ben oltre. Ah beh sì, ma infatti dire, c'è in mezzo anche Tizio. È pieno infatti ma è per esempio pieno di articoli oggi sul ruolo delle fondazioni, tutti raccontano queste fondazioni che vengono finanziate e hanno una trasparenza zero, ma perché è stata fatta? Che ha detto ieri Cantone, cioè devono esistere le fondazioni, senz'altro, esistono le cooperative, ricordiamo la storia, la cooperativa accusata nasce nel 1899 quando i ragazzini non andavano a scuola, le donne morivano di parto e voglio dire non c'era ancora la luce elettrica in circolazione, benissimo, la esagero ovviamente, ma... Sì, il problema tutto è come si sono evolute le cose, è chiaro. Poi è chiaro che il nome di una persona fa... rumore, ma tra l'altro vale le fondazioni hanno delle leggi che sono trasparenza zero, ma perché se le sono fatte loro, nel senso oggi si racconta errorissimo è quello. Esatto, cioè hanno messo delle clausole per cui la trasparenza deve essere per le fondazioni solo se sono nominate tutte dai partiti, e qui c'è l'inghippo perché non sono tutti nominati dai partiti quelli che stanno nelle fondazioni, e questo è il motivo per cui non serve una trasparenza dei finanziamenti. Questo lo racconta oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, poi lo vedremo in rassegna stampa, insomma, diciamo, ma è bello che non lo racconta da oggi, ma è un gran classico. Cioè, esatto, le problematiche si conoscono ma si fanno fatica a risolvere. Però D'Alema ha parlato. D'Alema ancora, sentiamolo, è sdegnato. È veramente incredibile che intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con l'indagine in corso, la quale riguarda un'ipotesi di reato precisa, quindi è veramente incredibile, perché la giustizia non può avere come fine sputtanare le persone, deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei reati. Diciamo. Eccolo lì, insomma, dice Luca, quello che dici anche te, niente sputtanamento. E vabbè, però lo fa sempre con quella antipatia di fondo che è resta il fatto che arriverà, forse vedremo un giorno in cui la magistratura, la famosa indagine, la farà su se stessa. Sarebbe ora. Attenzione, c'è un Luca Dini che editorialista del Foglio. Purtroppo, siccome va molto di moda dire che i politici sono tutti marci. Purtroppo c'è questa tendenza a dire no, fanno tutti schifo, sono tutti ladri sostanzialmente gli altri, noi no. Quindi va molto di moda, diciamo, sposare questo atteggiamento. No, ma infatti questo no, ce lo spiegava Gerardo Colombo in maniera straordinaria un paio di giorni fa, quando abbiamo parlato di corruzione, e ha detto: siamo tutti pronti a puntare il dito, ma ci chiediamo mai quanti di noi, quanti italiani, se potessero avere dei comportamenti dediti alla corruzione, quanti lo farebbero veramente? Mi sa, lui per la verità, Paolo, ha detto quasi tutti. Ai noi. Ma dalla piccola corruzione, giusto, no, ma giusto neanche questo. No, ma nel senso la piccola questione, cioè dice quanti di noi passerebbero la fila, quanti di noi farebbero la furberia, quanti di noi farebbero, però siamo sempre pronti a dire che sono gli altri. Non tutti. non tutti, non tutti, perché non tutti, si comincia a casa propria, si comincia insegnando ai propri figli a non copiare a scuola, eccetera, eccetera. Si può fare. Tra l'altro io ho un dramma. Ho un dramma, Paola. Mia figlia ieri ha preso una nota perché il maestro ha scritto che leggeva Topolino durante. Oh, che meraviglia, voglio l'autografo di tua figlia. No, no, capito. Ecco, sì, vedi? Eroina. Vedi? Sono stato già anche rimproverato da mia moglie perché dice che non sono stato abbastanza duro nel reagire a questa cosa. Ma però è stata brava, cioè voglio dire. Ma come leggeva Topolino a scuola? Luca, mentre il maestro insegnava. Tu per Francesca, disattenzione. Io parlo di correttezza, che è un'altra sì, cosa. Sì, certo. No, vabbè. Paola, che devo fare? Però, allora, la mamma è sempre la mamma, e che mamma, e sì, va rispettata nel suo ruolo, di dire, beh, dovevi sgridarla, ed è vero. Allora, piccola bambina, piccola Milan, non si legge a scuola quando il maestro spiega, non si legge Topolino a scuola, ma da persone che sono diventate un po' più grandi e non sono più a scuola elementare. Che invidia, brava. Certo, questo è vero, l'invidia cede parecchia. Comunque la vicenda D'Alema ha fatto rialzare la testa a De Luca, che ha fatto un'intervista a Repubblica. Oggi dice così: voi dovete immaginare sempre con la sua solita voce impostata, Paola Saluzzi, De Luca ha detto: io questo vino comprato che credo sia una zozzeria. Ecco, questo è De Luca. Comunque De Luca è uno che dice: faccio mille passi avanti. Sentitelo, è comparso anche in TV, basta, ha rialzato la testa. Mi è capitato di avere un colloquio qualche giorno fa con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti. Eravamo lì seduti a Palazzo Chigi, in un clima di grande cordialità, e cominciano le agenzie. Hanno chiesto il passo indietro. Per la verità mi hanno chiesto tutto il contrario. La parola d'ordine del colloquio era avanti Savoia. Avanti, se siete Ubamiani, forward. Forward. Ma ragazzi, De Luca è un grandissimo forward. Avanti. Luca, non ti piace? Non ti piace il tono? No, non mi piace, teatrale. Non mi piace il tono e non mi piace il contenuto, perché comunque ci sono delle. Le regole vanno rispettate. Mille poi passi discutere. Prima vanno rispettate. Quindi secondo me lui il passo indietro lo doveva fare prima. Passo indietro oggi dice anche a Repubblica: mille passi avanti, forward. Però se è vero che quattro campani su cinque pensano che lui lo debba fare questo passo indietro, vabbè. Lo vedremo alle urne. Intanto, esatto. Intanto sentiamolo ancora, poi andiamo al traffico. È forward, avanti Savoia. Ma veramente qualcuno può pensare che io stia facendo questa battaglia senza che Renzi condivida, approvi e sostenga? Ma si può essere così idioti? Hanno paura. Che meraviglia. Andremo avanti. Governeremo la Campania. 24 mattino. In questo paese di ipocriti di merda, le redenzioni devono passare tutte attraverso Don Benzi, Don Mazzi, Don Ciotti, Don Bizzi, Don Buzzi, Don Bozzi. È allucinante. Schwarz, Berlusconi, Corona e tutti gli altri. Ciao Ale, ma si può sapere come sono andate a finire le inchieste di Woodcock? Se sono andate a sentenza, se sono state archiviate? Perché cominciano sempre con clamorosi arresti, altrettanto clamorose intercettazioni. Ma non vorrei che dovessimo pagare anche il sindaco di Ischia. Perché io, che ho fatto 5 o 6 lavori nella mia vita, avrò una sola pensione, mentre loro si sono distribuiti pensione per ogni mansione che hanno avuto? Questa non è una cosa anticostituzionale? Caro signor Milan, caro signor Milan, tu stai buono perché sei attorniato da tante belle signore e signorina a mattino, 24 mattina. E perché non invita anche il cardinale Sepe, capite? Che gli viene con la veste pulisse, capite? La tonaca bella larga larga, e vi fa un pochettino compagnia. E viva l'Italia, e così sia. Il cardinale, Paola Saluzzi, mamma mia, il cardinale Sepe. Il cardinale Sepe, sì, insomma, voglio dire, è criticato, è criticabile, non lo so, insomma, è stato buono, però ecco, quello rimane un momento, rimane un momento epocale. Sente un po', qua Luca Didi, Libero oggi scrive che c'è stato un servizio, ma quando avete fatto il servizio a Ladylike, Moretti, che dice che vi hanno massacrato la foto che ha fatto con i tacchi sulla sala del mappamondo, sugli scranni della camera praticamente, avete fatto... Quando risale? Oh, non mi ricordo neanche, ma è stato, no, mi ricordo un servizio, ma molto tempo fa, non ricordo questa foto. C'è questa foto, dice, in posa per un servizio di Vanity Fair nella sala del mappamondo di Palazzo Montecitorio, con i tacchi sui banchi, sugli scranni, come li vogliamo chiamare. Ti informo che in rete c'è un massacro, ma non nei confronti di Vanity Fair, ma come dire, della modalità, insomma, dice, mette i piedi sugli scranni del Parlamento. Vabbè, in Italia si fanno polemiche su tutto, però vorrei chiederti invece questa cosa un po' più interessante. Ma Sandro Bondi, allora, tu che l'hai conosciuto da vicino, Sandro Bondi, sapete, quando era ministro della cultura faceva anche le poesie su Vanity Fair, te le ricordi, Paola Saluzzi? Uno dei momenti. Me ne ha dedicata una. Te l'ha dedicata una? Sì, sì. Ciao. Ma bellissima, tra l'altro, e perfettamente. Che vuol dire? Mi devo ingelosire subito? No, assolutamente no, perché Bondi dedica le poesie, ma senza intenzioni che vadano oltre. Questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Però mi ritrovai con una poesia dedicata su Bani. Vabbè, insomma. No, che è partita. Eccolo, è partita. No, Luca Didi, tu che sai che hai lasciato Forza Italia, no? Sì. Ma che tipo è Bondi? Io non ho mai avuto occasione. Cioè, ti ha stupito questa cosa? No, non mi ha stupito. Non mi ha stupito perché viene dopo. Io adesso non lo sento veramente da tanto tempo, ma l'ultima volta che l'ho sentito, e ti parlo di. Un paio di anni fa, era già estremamente amareggiato e disilluso. Quindi ci ha messo due anni. È un processo lento, lungo. Cioè, c'è stato uno suo scomparire dalla parte più attiva del partito. Cioè, c'è un allontanamento, insomma. C'è un allontanamento. Va bene. Sì. Ma queste poesie come sono nate? Questa cosa di. Cioè, ti ha chiamato lui dicendo vorrei. No, è successo che lui aveva. Era stato intervistato da Vanity Fair, aveva parlato di questo suo hobby, gli piaceva scrivere poesie, eccetera. E abbiamo proposto e lui subito ha cominciato, devo dire, puntualmente. Poi io mi ricordo una cosa bellissima, che ci deve essere ancora in rete da qualche parte, che è splendido, si chiamava Bondolizer, era un generatore automatico di poesie di Bondi. Erano delle terzine, no? Vorrei fare pubblicamente i complimenti a chiunque l'abbia inventato, perché era bellissimo. Un generatore automatico, cioè metteva insieme Bondolizer. Tre terzine, cioè metteva insieme una terzina così di frasi, eccetera. Sì, sai, accostamenti un po' audaci. Sì, sì, sì, le ricordo, le poesie. Ascella audace. Vabbè, ma invece la copertina di Vanity Fair oggi è una splendida donna, è Jennifer Lawrence, che ha soli 24 anni, pare la regina di Hollywood, decide tutto lei, capito? Un po' come la nostra aperta? L'hai aperta la copertina? Porca. Confessa. Oh, porca miseria, no? Porca miseria. Devo dire tutto. Scusate, l'ho aperta adesso. Diciamo che i protagonisti sono Jennifer Lawrence e un lungo pitone. Ecco. Non è D'Alema. non è D'Alema. Giuro, è una copertina che si apre così, perché interpreta Eva. E allora se fossi tua moglie, quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Ecco. Hai notato comunque il tono del nostro super deal? L'hai aperta, sì, ma era molto Bond, James Bond, sì, ora, tra l'altro, molto James Sandro Bond, ma ha svelato anche un mondo aprendo. No, non l'avevo fatto. È una, come dire, Jennifer Lawrence di quelle che rimane impressa. Mentre tu, Paola Saluzzi, che farai alle 15, ovviamente? Io vorrei parlare di un'altra Eva, e cioè la Ferrari di Vettel. Lo adoro, lo dichiaro, faccio proprio dichiarazione d'amore nei confronti di un super pilota straordinario. Non è vero, non parleremo mai di questo, perché abbiamo tantissimi temi da parlare, su cui ovviamente corruzione, anticorruzione, la politica e attenzione, corruzione. Tutto ciò che riguarda il comune di Roma. Ah, Roma. Tra l'altro c'era prima una signora in segreteria che si lamentava di Don Biffi, Don Bozzi, Don Ciotti e metteva anche Schwarz. Domani avremo ai nostri microfoni Alex Schwarz. Domani qui a 24 mattina, alle 8:15. Perché... Vi ascoltiamo, sì. Vi seguiamo. Alex caro comandante Schwarz. Alino. Va bene. Allora io intanto vi ringrazio, Luca Dini, trovate il numero di Vanity Fair con la copertina. Come dire, il pitone. Vabbè, la copertina dedicata a Jennifer Lawrence. Grazie a Paola Saluzzi alle 15 su Sky. Alla prossima. Hanno chiesto il passo indietro. Per la verità mi hanno chiesto tutto il contrario. La parola d'ordine del colloquio era avanti Savoia. Se siete obamiani, forward, avanti. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Allora, sono le 7:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua cari ascoltatori, ora vi leggerò i giornali come al solito. Avremo ospiti alle 8:15 parlando di quello che è la nuova inchiesta sui giornali. D'Alema ancora si difende dicendo sono indignato, lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, tra poco la leggeremo. Avremo ospite Michele Emiliano del PD, candidato in Puglia. Avremo ospite Fabrizio Rondolino, questo dalle 8:15. Poi parleremo della Liguria, dove da un paio di giorni abbiamo raccontato come la legislatura sia finita con la fine di marzo, cioè ieri. Ma in attesa delle nuove elezioni, i consiglieri regionali, pur non lavorando, percepiranno lo stipendio. È una di quelle cose che tutti noi italiani ambiremmo ad avere, no? Tu vorresti, Peter Bescabè, stare a casa e venir pagato lo stesso, così. Ma non perché sei in malattia, perché stai a casa, perché hai finito di lavorare, però ti danno 2 mesi di stipendio in più. Vabbè, questo succede alla regione Liguria, come in tutte le regioni, peraltro. Avremo il presidente del Consiglio regionale, Michele Boffa, della regione Liguria, a spiegarci questa follia all'italiana. Ora leggiamo i giornali. È mercoledì 1 aprile, niente pescioni, mi raccomando, e i titoli sono questi. Il Sole 24 Ore, disoccupati in crescita, a febbraio persi 44.000 posti. Sulla disoccupazione anche La Stampa titola i giovani esclusi dalla ripresa. E così Il Manifesto mette una foto di giovani, il titolo molto renziano è state sereni. Il Giornale invece, Renzi tra ladri e disoccupati. Questo è il titolo di prima pagina che mette insieme l'inchiesta e i dati sulla disoccupazione. Per il Corriere della Sera, da cui partiremo tra poco, svelati i tagli di Cottarelli. Ieri ce lo aveva anticipato Gutgeld, entro 10 giorni, e in serata il governo ha deciso di svelare i dossier dei tavoli di lavoro del precedente commissario alla spending review. Per Repubblica, sia il rimpasto al posto di Lupi arriva Del Rio. Questa è un'indiscrezione che forse oggi troverà conferma definitiva. Del Rio al posto del dimissionato Lupi. Il Fatto Quotidiano, chi controlla il telefono di Renzi? Il cellulare del premier intestato alla fondazione Open viene fuori dall'inchiesta di Ischia. Il Messaggero, infrastrutture arriva Del Rio. E così Il Secolo XIX, Renzi rimpasta, sale Del Rio. Libero invece apre sul pilota stragista Lubitz, Lufthansa ammette, sapevamo che era matto. Questo è il titolo di prima pagina. Ma come detto, i dossier Cottarelli sono stati messi online finalmente nel sito del Ministero dell'Economia. I risparmi proposti dal predecessore di Gutgeld, che ieri qui ai microfoni di 24 mattino ha detto taglieremo 10 miliardi entro la fine dell'anno per mettere nella legge di stabilità, altrimenti scattano le clausole di salvaguardia e aumentano le tasse nel 2016. Comunque il dossier Cottarelli, raccontano Eugenio Bruno, Davide Colombo, Carmine Fotina e Marco Rogari, che hanno studiato questi dossier pubblicati sul sito e sono ovviamente sul Sole 24 Ore a pagina 5, per lo Stato affitti da 1,2 miliardi. Lo Stato affitta questo, 1,2 miliardi l'anno. Spese fuori controllo e poi finanziamenti ai partiti che restano misteriosi, ma anche proposte per rivedere i trasferimenti ad autotrasporto e trasporto pubblico locale, per rafforzare la fase di esecuzione delle opere pubbliche programmate dal CIPE e definanziare quelle non avviate, così come proposte sulle pensioni col superamento dei cumuli, l'aggancio delle prestazioni assistenziali al reddito effettivo. E ancora suggerimenti come l'addio ai piccoli comuni, la licenziabilità dei dipendenti pubblici. Notate il mio tono della voce. I costi standard per i consigli regionali fino alla giustizia e alla sanità. Insomma, questo è il susseguirsi di indicazioni che sgorgano dai 19 rapporti sulla spending review dei gruppi di lavoro coordinati da Cottarelli, e su cui ieri è caduto il velo. Dai dossier emergono indicazioni su come riorganizzare la pubblica amministrazione, il pubblico impiego, le partecipate, i costi della politica, per i quali erano stati ipotizzati risparmi per 700 milioni in parte assorbite dal disegno di legge IRPEF sugli 80 euro, avviato anche il rafforzamento delle centrali di acquisto e beni e servizi imperniato su Consip, attraverso il quale erano stati ipotizzati 3 o 4 miliardi di risparmi a regime. Ovviamente queste sono tutte cose che sono rimaste, sono state studiate, sono state ipotizzate e sono rimaste sulla carta. Ora c'è un nuovo commissario, appunto Yoram Gutgeld, ieri ha parlato qui per la prima volta a Radio 24 dopo la nomina. Vedremo di queste proposte che cosa concretizzerà nel suo lavoro futuro. Intanto tutti i dettagli li trovate sul Sole, come sugli altri giornali, e li potete anche vedere sul sito del Ministero dell'Economia sotto la voce revisione della spesa. Io l'ho fatto in 2 minuti, non li ho trovati, però sono sicuro che se mi ci mettessi 3-4 minuti li trovo. Comunque sì, il sito è il Ministero dell'Economia, la voce da cercare è revisione della spesa, lì ci sono tutti i dossier di Cottarelli. Mentre La Stampa oggi fa 2 interessanti pagine sull'Expo, perché manca un mese esatto, 1° maggio, siamo al 1° aprile, manca un mese. Il titolo di prima pagina è per nulla incoraggiante sulla Stampa: a un mese da Expo finito il 9% dei lavori. 9%. La cifra messa così è bassissima. Manca un mese all'avvio, in ritardo 3 cantieri su 4. Fabio Poletti racconta, pagina 6, manca un mese, l'orologio di Expo 2015 corre veloce. Pure troppo, stando al cruscotto dei lavori sul sito grande come 170 campi da calcio. Dei 34 lotti di competenza italiana, il 74% è ancora in lavorazione, il 9% in fase di collaudo, altrettanti sono già finiti. Il 6% sono sottoposti a verifica amministrativa, l'1% sono sospesi. Tra l'altro, fa sapere La Stampa che qualcosa ovviamente non verrà finito, e allora è stato fatto un appalto da 2.685.200 euro per la messa in opera degli external exhibition elements, insomma una sorta di camouflage, come viene definito, cioè 2.685.200 euro per nascondere quelle parti che non sono ancora ultimate ai primi turisti, ai primi visitatori di Expo dal 1° maggio. Il commissario Sala comunque si dice sono fiducioso. Fa registrare La Stampa invece un governatore della Lombardia, Maroni, un po' più nervoso qualche giorno fa a dire sono moderatamente preoccupato dei ritardi, ma non chiedete a me visto che non sono io che tiro sui padiglioni. Mentre il commissario dice il 1° maggio apriremo tutto, così anche il presidente dell'Expo Diana Bracco, commissario per il padiglione Italia, rassicura: apriremo tutto, anche l'albero della vita è a buon punto, sarà pronto in una ventina di giorni, quindi stiamo andando avanti bene. Non resta che attendere ovviamente, capire il 1° maggio che cosa succederà. Ovviamente abbiamo parlato di tagli, E che succede subito a proposito di tagli? Succede che sul corpo forestale, lo stesso Guttgeld ieri ha detto, sul corpo forestale potremmo ipotizzare un accorpamento, uno scioglimento del corpo forestale e assorbirlo nella Polizia di Stato. Ebbene, cosa c'è stato? C'è stata la difesa a oltranza. La piazza difende il corpo forestale. Ieri leggevo di Mario Tozzi in prima pagina della Stampa. Ora, non rottamatelo, coro bipartisan è una risorsa per l'Italia. Così leggo il titolo a pagina 20 del Corriere della Sera. C'è anche un'intervista al comandante del corpo forestale in Campania, il comandante regionale Sergio Costa, che dice: qui nella terra dei fuochi brindano se ci chiudono. Nostre fonti ci assicurano che all'annuncio i casalesi han festeggiato a pasterelle champagne. Da quando siamo qui non seppelliscono più nemmeno un rifiuto. Se ce ne andassimo dalla terra dei fuochi, i clan festeggerebbero e tornerebbero a fare il bello e il cattivo tempo. Allora, io non lo so, voglio pensare che sia così. Certo, c'è quella sensazione in Italia che appena si dice facciamo qualcosa, ecco che partono le barricate e le proteste. Vabbè, ma siamo al momento del premio Mani sul volante, anzi mani sul microfono, io le tengo così le mani sul microfono. Voi tenete le mani sul volante oppure appoggiate tutto ciò che, c'è, che avete di bollente per le vostre colazioni. Siamo anche su Periscope? Sì, siamo su Periscope. Se voi non sapete cos'è Periscope e pensate che io stia dicendo una follia, vabbè, insomma, adeguatevi. Siamo in diretta anche su Periscope. Comunque, il premio Mani sul volante va oggi a Libero. Legnate ai vigili dai rom abusivi. Succede a Roma, Tor Sapienza ormai vale tutto. Beatrice Nencia racconta su Libero come la Polizia Municipale di Roma sia intervenuta per bonificare un centro d'accoglienza della Rustica sgomberato per un rogo e sia stata accolta così. Bastonate, colpi di scopa, insulti, cani aizzati, i cani aizzati, e due vigili urbani di Roma sono rimasti feriti. Va bene così, va bene tutto. Shh, fate silenzio, adesso c'è Alessandro Milan. Oh, finalmente ci pone un po', dopo le mie urla sulla carta costa, ci pone un po' in un clima più rasserenato. Allora, cari ascoltatori, continuano ovviamente le indiscrezioni, continuano gli articoli sull'inchiesta di Ischia che ha portato all'arresto del sindaco di Ischia e però ha portato anche alla citazione, non posso dire neanche il coinvolgimento perché, come abbiamo detto più volte, non è indagato di nulla, di Massimo D'Alema. In qualche modo è finito nelle telefonate delle persone arrestate e oggi fa sapere il Corriere della Sera: ad Alema bonifici per 87.000 euro, o meglio alla Fondazione Italiani Europei che risponde ad Alema, 87.000 euro che peraltro sono acquisti annuali da 22.500 euro del suo vino, del vino che è fatto dalla sua famiglia. Complessivamente queste forniture annuali che la CPL Concordia, la cooperativa, ordinò all'azienda La Madeleine di Massimo D'Alema è proprio questa, 22.500 euro all'anno in spumanti e vino rosso. Complessivamente i versamenti totali ammontano a 87.000 euro in tre anni. D'Alema si difende. Ieri è intervistato da Repubblica, oggi viene intervistato da Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. L'intera pagina 3 dice: così la magistratura si delegittima da sola. Il CSM e l'ANM devono intervenire. Il CSM è l'organo di autogoverno dei giudici, l'ANM è il sindacato dei magistrati. Massimo D'Alema si dice ancora indignato e offeso, intervistato da Giovanni Bianconi. Davvero non trova ragione per cui finisca in quel calderone di intercettazione. Quale potrei trovare? Si parla di ipotesi di reato tutta da dimostrare in cui io non c'entro. Non c'era alcuna necessità di utilizzare intercettazioni tra terze persone. Allora mi viene il sospetto che ci sia un motivo, per così dire, extraprocessuale. Dubito che la notizia dell'arresto del sindaco di Ischia e qualche suo presunto complice sarebbe finita sulle prime pagine dei giornali se nell'ordinanza non fossero stati citati D'Alema, Tremonti, Lotti o qualche altro personaggio di richiamo. Ma che fa? Delegittima la magistratura, D'Alema? Io non delegittimo nessuno, sono stato a lungo indagato e sempre prosciolto anche quando ero al governo. Un PM ha dovuto risarcirmi per i tempi troppo lunghi di accertamento della verità a spese dei contribuenti. Credo che l'organo di autogoverno della magistratura, il CSM, ma anche l'associazione magistrati, che ripeto è il sindacato, dovrebbero esercitare una maggiore vigilanza affinché certe misure non siano superate e la magistratura non si delegittimi da sola. Poi torna sulla questione dell'acquisto dei libri dei vini. L'acquisto dei libri legato a prestazioni in concomitanza con un'iniziativa elettorale a favore del sindaco Ferrandino rientra nei finanziamenti che raccogliamo per la Fondazione Italiani Europei, associazione culturale che pubblica una rivista prestigiosa. Quanto al vino, aggiunge D'Alema, mi scusi ma mi viene da sorridere. Se i PM vogliono acquisire agli atti una buona guida enologica, scopriranno che i nostri spumanti sono tra i migliori. E chiede Bianconi, ma l'acquirente dice che fu lei a chiedere di comprare. Guardi, in generale consiglio a tutti di comprare il vino mio. Spero non sia un reato grave. Così D'Alema. In realtà la questione delle fondazioni, che viene un po' liquidata in questa intervista, è una questione ben più seria. È forse la questione, questo almeno scrive Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere, poi l'articolo continua a pagina 5, è il problema. Fondazioni, scopi alti, mezzi opachi. Questo è il titolo dell'editoriale. Che una cooperativa finanzi una fondazione politica, come sembrava essere nei progetti della CPL Concordia, non è affatto uno scandalo, scrive Rizzo. Nelle democrazie occidentali è questa la forma con cui i privati contribuiscono alla formazione della classe dirigente dei partiti. Il problema è la trasparenza. Nel 2012 un emendamento Lanzillotta-Vassallo che mirava a imporre le stesse regole di trasparenza previste per i partiti anche alle fondazioni fu impallinato da destra e sinistra. Due anni più tardi ecco spuntare finalmente quell'obbligo. Peccato che sia inapplicabile. La norma di cui parliamo dice che sono soggette agli obblighi di trasparenza validi per partiti le fondazioni i cui organi direttivi siano nominati in tutto o in parte dai partiti medesimi. Neppure una di quelle esistenti ricade in questa fattispecie. E siccome chi l'ha scritta non ha l'anello al naso, la norma aggiunge che le regole di trasparenza, per esempio la pubblicazione online di tutti i contributi di entità superiore a 5.000 euro, si applicano anche a quelle fondazioni che destinano più del 10% dei proventi al finanziamento di attività politiche. Si tratta solo di stabilire come e chi controlla che quel limite non venga superato, ma di questo non si fa cenno. Fatta la legge, non si deve neppure fare la fatica di trovare l'inganno. Insomma, scrive Sergio Rizzo, la verità è che non si sa come e chi finanzia queste fondazioni. Nella fondazione Open, riconducibile al Premier, al Presidente del Consiglio, scrive Rizzo, in realtà ci sono i finanziatori, dai 175.000 euro del patron del fondo Algebris Serra, ai 50.000 euro dell'ex Presidente Fiat Fresco e della sua consorte, i 60.000 euro della ISVAFIM di Alfredo Romeo. Va però detto che non compaiono i nomi di chi non ha dato l'assenso alla pubblicazione, come se la privacy possa valere per i finanziamenti a una fondazione che fa riferimento al Premier. Quindi lì ci sono i dati, ma solo perché chi ha versato ha dato il consenso a pubblicarli. Non dovrebbe essere tutto trasparente sapere se una fondazione riconducibile a un qualsivoglia politico prenda anche mezzo euro di finanziamento legittimo, ma che si sappia, che venga resa noto, non è una cosa complicata. Sta di fatto che questa inchiesta ha fatto rialzare la testa a Vincenzo De Luca. L'abbiamo sentito anche in audio, ha detto: mille passi avanti farò. E ha intervistato la Concita Sannino, rispolvera questa lurda showman e dice: un passo indietro, mille passi avanti farò. E sentite che dice: la COP, la CPL Concordia, andrebbe punita severamente, dice De Luca Repubblica. Le bottiglie di vino di D'Alema, la società andrebbe sanzionata anche per l'acquisto di un vino che io credo sarà una vera zozzeria. questo De Luca, del, non si capisce se dell'acquisto o proprio il giudizio sul vino di D'Alema. Questa forse è la cosa, lo sgarbo maggiore. D'Alema una pugnalata lo ferirebbe di meno del giudizio, una zozzeria il vino di D'Alema. Comunque, dice Vincenzo De Luca, io, sono io che sollevo la questione morale e faccio mille passi in avanti, altro che impresentabile. La moralità non la si predica, la si pratica. La morale non si esprime nei salotti TV. Abituiamoci a domandare ai distributori di moralità quanto guadagnano, come vivono, dove vanno in ferie, quanti soldi all'estero hanno, quante amanti mantengono. Vedrà che la platea dei moralizzatori si riduce fino ad azzerarsi. Così parlò Vincenzo De Luca, intervistato da Repubblica. Oh, c'è anche in tutto questo il telefonino di Renzi che è finito intercettato. Questa è la notizia che ieri ha dato il Fatto Quotidiano, che oggi si chiede ma chi lo paga questo telefono. Viene fuori la notizia giornalistica che il telefono, scrive Davide Vecchia, pagina 2, è pagato dalla fondazione Open, quella appunto riconducibile al Premier, un numero che tra l'altro è finito intercettato mentre il Premier conversava col generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi. I due si conoscono da tempo, scrive il Fatto, e la telefonata, racconta il giornale, è stata secretata. Intercettato Renzi, ma intercettato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti. Queste telefonate per ora però non si sa nulla. Mentre attenzione, perché a proposito di posti di governo c'è il rimpasto. È ormai abbastanza chiaro, così raccontano tutti i giornali, che Del Rio dovrebbe sostituire Lupi, che si è dimesso dopo le vicende del Rolex, eccetera, anche lui non indagato, però si è dimesso per la vicenda della presunta cricca delle grandi opere. Del Rio dovrebbe andare al suo posto. E allora a NCD, che ha perso il Ministero alle Infrastrutture, dovrebbe andare il Ministero agli Affari Regionali, quello lasciato scoperto dalle dimissioni di Lanzetta. Racconta Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, a pagina 8, che NCD vorrebbe mettere Gaetano Quagliariello, ma si è sentita rispondere da Renzi: no, voglio una donna. Per mantenere anche il numero delle quote, no? Le cosiddette quote rosa. E allora in pista potrebbero essere o Federica Chiavaroli o Rosanna Scopelliti o Valentina Castaldini o Erminia Mazzoni, questi al Ministero degli Affari Regionali. Questa, almeno secondo quanto racconta il Corriere della Sera, la notizia più importante è che pare ormai certo che Del Rio dovrebbe fare il ministro alle infrastrutture, e quindi però si scoperchia un posto. Chi va a fare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio al posto di Del Rio? Forse Mauro Meazza? No, non si sa. Buongiorno Mauro, puoi candidarti. Buongiorno. Ma forse Maria Elena Boschi, ecco questo. Forse è più probabile, anche per rispettare questo grido un po' felliniano, voglio una donna. Mi fa venire in mente un vecchio film di Fellini, ma lasciamo stare. Sei entrato subito in un campo minatissimo. Però era una battuta memorabile, storia del cinema. Non stiamo mica facendo della facile ironia. No. Anche perché, guarda, siamo sulle cose serie. Oggi con il Sole 24 Ore ci sono 16 pagine dedicate a questa depenalizzazione, diciamo così, è un termine improprio, mi perdoneranno i giuristi, ma insomma la possibile archiviazione per tenuità del fatto. Quindi tutta una serie di reati che escono dal, possono uscire, diciamo, dall'alveo del per penale. Esempio, rubano la ruota della bicicletta di Alessandro Milan nel cortile di casa. Beh, bisogna vedere, perché se si tratta di un delinquente abituale, esatto, non ne rientra. Ma se è uno che l'ha fatto una volta, la sfangherà, perché la tenuità del fatto. Esatto, se sono io che mi sono un po' irritato per alcuni lanci che tu mi fai la mattina, allora potrei contare sulla valutazione del mio essere non delinquente non abituale, diciamo così, o almeno spero, ecco. Poi chiaramente non si può giurare su nessuno, neanche su se stessi, naturalmente. Senti, altre cose più serie, ovviamente i dati sull'occupazione non buoni di febbraio, che analizziamo puntualmente con dovizia di particolari e anche di analisi sul sono numeri, non sai che sui numeri guarda, per in Italia non è che i numeri sono poi così scienza guarda, per dimostrarti che non sono un gufo, ti invito ad andare fino alle pagine di Imprese e Territori e nella fattispecie, ti piace nella fattispecie? Bello. Nella fattispecie alle pagine in cui si parla di lavoro, perché parliamo di due contratti, uno si è chiuso per il commercio, con delle novità anche importanti sull'utilizzo anche flessibile degli orari, e quello dei bancari che sembra essere arrivato alla parte finale, alla conclusione. Quindi vedi che non sono gufo, guardo anche le cose positive, si muovono, insomma, non so, però purtroppo non possiamo fare la realtà diversa da quello che è. Invece sull'oblio, sai cos'è il diritto all'oblio, quella cosa per cui... Ecco, sull'oblio c'è una precisazione abbastanza importante, ne parliamo in norme e tributi, perché è stata respinta la richiesta di un signore che non voleva vedersi citato, ma il fatto era recente, per di più la notizia era vera, e quindi c'è il, come dire, il diritto all'oblio, diritto non può essere invocato, esatto, prevale quello di cronaca. Tra l'altro è importante, se compri le cose con il telefonino, con uno smartphone, un tablet, quel che vuoi, ci sono delle precisazioni del garante su che cosa fanno poi dei tuoi dati, perché diciamo c'era un po' di deregulation, di mancanza di indicazioni sul punto. Adesso le indicazioni ci sono, indovina dove le trovi, nelle pagine di... Oh, bravissimo, dove anche proseguiamo, scusa, torno sul lavoro, le conclusioni emerse ieri nel corso di tutto lavoro. Intanto che tu prestavi 2 euro, hai dato 2 euro a Gutgeld da ieri, poi io alla fine... No, Gutgeld vuol dire buon denaro, tra l'altro in tedesco, soldi speriamo buoni, bene. Quindi capisci. Speriamo che... bene, i latini dicevano nome nomen, esatto. Il destino nel nome, chissà se sarà così anche in questo caso. Comunque, visto che ti ha chiesto 10 miliardi, ma tu gli avrai dato i soldi 2 euro sì, alla fine. Sì, più di così. Vabbè, no. Si sa che è d'altra parte. Comunque, al di là delle indicazioni di Gutgeld, oggi torniamo invece su quelle di tutto lavoro, perché intanto tu parlavi con Gutgeld, si discuteva anche di lavoro proprio lì alla sede del Sole 24 Ore. Alessandro Power, Milan! Pura energia al mattino. Addirittura. Evviva però, evviva caro ascoltatore. Allora, per chiudere con la politica, vi segnalo un'intervista colloquio che Goffredo De Marchis fa su Repubblica con Pierluigi Bersani, che tiene duro e dice delle cose durissime su Renzi. Vabbè, il non sono convinto che abbia i numeri per approvare l'Italicum, questo si vedrà in aula. Ma sentite poi che aggiunge Bersani. Ci ha detto a un certo punto Renzi: non mi fido, ho trovato questa risposta offensiva molto più delle battutine che riserva chi dissente. Non mi fido di Berlusconi, lo puoi dire, ma se non ti fidi del tuo partito è la fine. E poi ancora Bersani: i giornali sono pieni di veline, lo facevo anch'io quando ero segretario, ma un po' mi vergognavo e dicevo ai miei: andiamoci piano. L'Italia adesso invece si prende questa legge elettorale, nessun commentatore sottolinea il pericolo cui andiamo incontro, vedo un'ignavia diffusa. L'establishment italiano è una vergogna, aggiunge Bersani. Sono 4-5 poteri che dicono andiamo avanti, corriamo, e non si chiedono se andiamo avanti per la strada giusta o verso il precipizio. Potrei fare nomi e cognomi di questi poteri e scrivere accanto le rispettive convenienze che hanno nel tacere, nel sostenere questa deriva. E ancora Bersani aggiunge: tanto Renzi, ti dicono, dura 20 anni, ma ne siamo proprio sicuri? Secondo me no. La situazione è fluida, la crisi non è finita. Avete visto i dati sulla disoccupazione? Beh, un Bersani davvero che attacca Renzi e anche l'ignavia dell'establishment italiano definito una vergogna. Vabbè, poi ci sono tante pagine sull'addio di Bondi e Repetti, che sono peraltro una coppia, oltre che parlamentari, a Forza Italia, e qui se volete trovate anche questo. Beh certo, Libero invece dà una notizia abbastanza clamorosa che rischia di deflagrare sulla corsa alle regionali in Veneto, perché racconta che la commissione antimafia è andata 2 giorni a Verona e la proposta della commissione antimafia, che è presieduta da Rosi Bindi, il titolo di prima pagina di Libero è questo: bomba Bindi sulle elezioni in Veneto, è che la commissione antimafia propone lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Verona. dove c'è il sindaco Tosi che si è candidato, dopo la frattura con la Lega, a governatore anche lui. Rosi bombarda Verona e le regionali. Sembrava strano ed irreale che a due mesi dal voto, non con la corsa 3 Zaia Tosi Moretti, non spuntasse fuori un colpo di scena, e ci ha pensato l'antimafia, racconta Libero, con Rosi Bindi. Verona, centro di infiltrazioni mafiose, la più esposta di tutta la regione. Bindi lancia la bomba, il comune va sciolto. Riteniamo di chiedere alla prefettura, al comitato per la sicurezza, di rivalutare la possibilità di nominare una commissione d'accesso per il comune veronese. E staremo a vedere, ma certo è una notizia che fa scalpore in Veneto. Come, signori, fa scalpore sempre di più ormai. Non passa giorno senza che la situazione della vicenda German Wings si aggravi, perché adesso Lufthansa ammette: nel 2009 Lubitz, il copilota, ci avvertì, ho sofferto di una depressione grave. Libero mette in prima pagina proprio il titolo così: Lufthansa, sapevamo che era matto. Ma leggete tutti i giornali, Elena Tebano sul Corriere della Sera, ho sofferto di depressione grave, la prima missione di Lufthansa a una settimana dal disastro dell'Airbus A320, con uno stringato comunicato sul sito, Lufthansa apre una crepa profonda nel muro del non ci aveva mai detto niente. Andreas Lubitz, copilota 27enne che ha fatto precipitare sulle Alpi francesi l'aereo diretto a Düsseldorf, uccidendo se stesso e 149 persone a bordo, nel 2009 aveva avvertito la scuola di volo della compagnia aerea sulla sua depressione. Certo, è spuntato anche un video, ma questi sono particolari più macabri e raccapriccianti sugli ultimi istanti del volo. Ma la cosa più incredibile è proprio questa. Aveva detto: un grave episodio di depressione ora risolto. O si sapeva. Tra l'altro, guardate, oggi sul giornale c'è una pagina di Clarissa Gigante. Sono nati i complottismi anche qui. No, no, io non ci volevo credere, invece sì. I complottisti scatenati sull'aereo. Tra questi c'è Rosario Marcianò, che racconta che una teoria campeggia fin dall'inizio, quella della inseminazione igroscopica delle nubi basse, una pratica che consentirebbe nell'immissione di sali nelle nuvole per pilotare le piogge, ovvero le scie chimiche, e per questo motivo il volo era troppo basso. No, io vorrei parlare al VAR con un caffè in mano con qualcuno che crede all'inseminazione igroscopica delle nubi basse, per spiegargli magari in maniera non proprio educata e gentile che la pianti con questi complottismi, soprattutto per una tragedia del genere. Vabbè, c'è solo tempo per la carta costa, eccoci qua, è l'articolo più inutile scovato sui giornali, come sapete, a mio insindacabile giudizio. E oggi vince il giorno con una pagina dedicata al Papa. Uno dice: si avvicina la Pasqua, ci saranno delle profonde riflessioni religiose. E invece no, il Papa è troppo grasso. Amici, niente passeggiate, troppa pasta. I medici sono preoccupati. Santità, santità, lei è troppo grasso. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:19, ben ritrovati da Alessandro Milan. Massimo D'Alema non molla di un centimetro, anzi attacca. Oggi sul Corriere della Sera fa un'intervista, si ripete, indignato per essere finito in un'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Ischia per presunte mazzette versate da una cooperativa, la CPL Concordia, e D'Alema lo dice chiaramente: sono stato messo lì, dato in pasto ai giornali, come altri nomi importanti, Lotti, Tremonti, per far finire questa inchiesta sulle prime pagine, altrimenti non ne avrebbe parlato nessuno o ne avrebbero parlati parlato poche persone e non con così tanto rilievo. E aggiunge D'Alema: l'organo di autogoverno dei giudici, il CSM, e il sindacato, l'ANM, intervengano. Sentite D'Alema. È veramente incredibile, perché la giustizia non può avere come fine sputtanare le persone, deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei reati. Sono sputtanato, ecco, questo in sintesi dice D'Alema. Sui giornali si viene a scoprire che questa cooperativa ha acquistato 87.000 euro di bottiglie di vino fatte dalla sua famiglia, 22.500 euro all'anno, proprio... Questa è la spesa, per carità, tutto in regola per finanziare la fondazione. Poi di queste fondazioni magari diremo qualcosa. Questa vicenda tra l'altro ha fatto rialzare la testa a Vincenzo De Luca, candidato del PD alla regione Campania. Qualcuno dice impresentabile per via della condanna in primo grado, lui dice ma che presentabile, presentabilissimo. E a Repubblica aggiunge: questa cooperativa che ha comprato questo vino, che io credo sia una zozzeria. De Luca: ma veramente qualcuno può pensare che io stia facendo questa battaglia senza che Renzi condivida, approvi e sostenga? La parola d'ordine del colloquio era avanti Savoia. Se siete obamiani, forward, avanti. Va avanti De Luca col suo fare sempre teatrale. Voglio chiedere subito a un altro candidato alla Regione Puglia, questa volta sempre il PD, Michele Emiliano. Buongiorno Emiliano, come va? Buongiorno, bene, bene. Allora, buongiorno. Candidato del PD, magistrato, questo è un particolare non secondario. Allora, è imbarazzato di quello che legge, o D'Alema fa bene a coinvolgere il CSM e l'ANM addirittura? Dire, in una vicenda come questa penso che ci voglia sempre molto equilibrio e anche un po' di attenzione, nel senso che questa vicenda coinvolge una società che dovrebbe essere la società che ha pagato le tangenti, se ho capito bene. E quindi questa stessa società ha fatto acquisti di vino da una persona che non svolge più attività politica, nel senso che non ha nessuna carica, quindi non è un pubblico ufficiale, e dunque questi acquisti non possono costituire neanche in potenza una accusa di reato, perché manca la qualità di tutti i reati contro la pubblica amministrazione, cioè non può essere considerata una corruzione. Infatti non è indagato, D'Alema. No, però non è che non è indagato, diciamo così, perché l'atto in sé per sé non fosse idoneo, è perché D'Alema non ha nessuna qualità necessaria anche dal punto di vista del diritto penale, perché esista un reato contro la pubblica amministrazione, cioè non ha funzioni pubbliche, non è in grado di scambiare nulla. Cioè questa intercettazione, lui mette le mani nella M e poi ci darà qualcosa, però insomma non dobbiamo fare il processo. Fare il processo, però voglio dire, quando una persona dunque non ha neanche la qualità per commettere il reato, non solo non lo ha commesso, ma non ha neanche la qualità astratta, perché è notoriamente fuori da tutte le istituzioni, e insomma è evidente che bisogna essere più prudenti che nei confronti di una persona che invece ha commesso il reato. Insomma, certo, fa un po' bene a sentirsi sputtanato, lei dice. Dico, però per entrambe i fatti che poi devono essere riferiti, sia per gli imputati che per i non imputati, ovviamente per i non imputati ancora di più, bisogna fare attenzione che dentro non ci sia la notizia, per esempio, che uno indossa il reggicalze abitualmente pur essendo un uomo. Perché se questa cosa non è rilevante ai fini dell'indagine, va tolta, perché sennò si distruggono le persone. Quindi lei questo da magistrato oltre che da politico nota questo rischio, no? Bisogna essere molto attenti, non si può andare con la vanga a togliere i granellini di polvere dal però Emiliano, le chiedo questo: quando D'Alema oggi al Corriere dice nessuno avrebbe parlato con tanta rilevanza di questa vicenda, e quindi il sospetto è che mi abbiano dato in pasto il mio nome, come quello di Lotti, di Tremonti, per rendere più mediatica questa inchiesta, cioè un magistrato può ragionare così? Una procura ragiona così? No, io non credo che una procura ragioni così, però è evidente che si dice con un termine latino ad colorandum, cioè per dare più tono ad un'indagine, anche non ai fini mediatici, proprio ai fini della considerazione anche da parte dei giudici, si vuole si è voluto dire che questa società non solo probabilmente ha corrotto il sindaco di Ischia, sì, ma era anche una società che si dava da fare cercando di rafforzare il proprio peso nel paese, evidentemente. Vabbè, ad contattando D'Alema. Ad coloranda, ma poi delle fondazioni le chiederò qualcosa. Prima mi faccia presentare Fabrizio Rondolino. Buongiorno Rondolino, come va? Buongiorno. Allora, Rondolino D'Alema l'ha conosciuto bene, eh? Fa bene ad essere arrabbiato Rondolino, il nostro ex premier? Ma io devo stare attento a come parlo, perché anch'io sono stato denunciato, anch'io. Io sono stato denunciato da Woodcock per aver... Ah, questa non la sapevo. No? Ma vabbè, ma un po' tutti i giornalisti italiani. No, beh, io no, una... però... Ecco, ti capiterà. Va bene, grazie, grazie. Una... No, nel senso che un... non credo che ci sia una sola inchiesta di Woodcock che abbia avuto mai un rapporto con la realtà. Quindi non è che mi stupisce più di tanto che lui abbia tirato in ballo D'Alema, perché effettivamente è esattamente come dice D'Alema stamattina, cioè questa inchiesta sarebbe finita nelle cronache locali del mattino, però il problema di Woodcock non è quello di fare giustizia, la giustizia non è mai interessata neanche minimamente, adesso arriverà una nuova querela, ecco, appunto, il problema di Woodcock è andare sui giornali, questa è una sua caratteristica specifica, è la sua caratteristica, dunque... Vabbè, c'è un procuratore capo, non è che Woodcock ci sono altri PM, c'è un procuratore... Sì, per carità, per carità, ma noi sappiamo bene che addirittura tra PM e giudici e ci si passano le carte prefirmate, figuriamoci tra PM e tra sostituto e procuratore capo. Ma adesso non voglio aprire una discussione sulla giustizia in Italia, perché purtroppo la cosa che mai mi permetto di dire è un'altra, purtroppo questa discussione avviene fuori tempo massimo, nel senso che la sinistra italiana, certo D'Alema molto meno di altri, ma la sinistra italiana ha sempre flirtato con le procure e con questa pratica selvaggia delle intercettazioni che non c'entrano niente, per combattere, abbattere il suo nemico principale, no? Berlusconi, e adesso, come dire, il male è talmente diffuso che, sì, che difendersi e proteggersi non è semplice. Però qui Rondolino c'è anche l'aspetto, per non perdere il fuoco della vicenda, di una cooperativa che avrebbe pagato un sindaco e alcuni giornali raccontano l'ennesimo scandalo che coinvolge le cooperative. Giusto. E l'ennesimo scandalo che coinvolge le fondazioni che fanno riferimento a qualche politico, in questo caso D'Alema, e i cui finanziamenti sono opachi, cioè non sono trasparenti, non si sa chi le finanzi e come e perché. Beh, sono però due aspetti diversi, perché per quanto riguarda diciamo, il sistema COP, chiamiamolo così, sono abbastanza scandalizzato e indignato anch'io, nel senso che, anzi, non so se si parla anche di politico o solo di robe giudiziarie, ma il sistema COP è parte integrale, il cuore della vecchia ditta, diciamo, il partito di Bersani. Allora, anziché stare a perdere tempo su minuzie della legge elettorale, forse Bersani e quel mondo lì farebbe bene a riflettere su come un sistema di potere si è venuto sviluppando e come mai in tutte le inchieste c'è sempre una coppia di mezzo, no? Expo, Mose, Mafia Capitale e adesso Ischia. Su questo, per carità, molto probabilmente un problema penale, c'è sicuramente un enorme problema politico. Le fondazioni è una cosa un po' diversa, perché bisogna ancora, lo diceva benissimo Emiliano prima, D'Alema è un privato cittadino, nel senso che non ha la possibilità. Certo, esercita un'influenza, ma andrebbe tutta chiarita. Dunque, di per sé il finanziamento, che non è il vino, perché questa cooperativa ha versato a bilancio della Fondazione degli Europei dei soldi specifici, sì, diciamo, sì, così, sì. No? E questo però di per sé io non lo trovo... Non è scandaloso, cioè, la questione, come scrive Sergio Rizzo oggi sul Corriere, forse è anche la trasparenza, non lo so. Emiliano, ci sono queste fondazioni riferite a politici, si parla anche per esempio della fondazione Open, oggi il Fatto Quotidiano denuncia come un qualcosa su cui dare chiarimenti il fatto che il telefonino del premier Matteo Renzi sia pagato dalla fondazione Open. Non lo so, Emiliano, queste fondazioni, è tutto chiaro quello che c'è dentro? Ma innanzitutto bisogna distinguere se una fondazione poi fa capo ad un politico in attività oppure no. Se uno stiamo rottamando D'Alema, cioè praticamente stiamo dicendo che D'Alema non conta più nulla. Da questo punto di vista non conta più nulla, sarà al massimo un ispiratore di linee politiche, ma non ha le mani in pasta, ecco, non per fare diciamo l'eco all'intercettazione, non ha le mani nel posto nel quale si decidono gli appalti o cose di questo tipo, non ha questo ruolo. Dopodiché, se qualcuno dimostrasse che senza essere pubblico ufficiale, quindi senza avere ruoli, comunque riesce a influenzare le gare, concorrerebbe nel reato di altri pubblici ufficiali, ma va dimostrato, certo. Ed è un'altra storia. Torniamo alle fondazioni. È chiaro che se la fondazione è un modo per aggirare le norme sul finanziamento pubblico dei partiti, è chiaro che queste fondazioni diventano illecite, andrebbero persino sorvegliate, e i mezzi per sorvegliarle esistono. Secondo me è giunto il momento di una norma generale che regoli l'attività dei partiti, perché non esiste ancora, pur la Costituzione chiedendo questa normativa che regoli il riconoscimento dei partiti, e soprattutto le norme sul finanziamento che riguardano i partiti dovrebbero essere le stesse anche nei confronti delle fondazioni, se le fondazioni sono al servizio dell'attività politica. Dovrebbe banalmente essere fatta una legge, ma oggi appunto sul Corriere Rizzo ricorda che la legge, l'emendamento Lanzillotta Vassallo di qualche anno fa sulle fondazioni è stato impallinato per dare la trasparenza, cioè io do un euro alla fondazione e la fondazione ha il dovere di pubblicare in maniera aperta che ha ricevuto un euro da Pinco Pallino, esatto. Il che non è reato, ma è giusto ed è bene che si sappia, soprattutto se queste fondazioni fanno riferimento a qualche politico. Allora, questa è la questione. Rondolino, anche la fondazione del Premier, racconta il Corriere, ha, è vero, tutta una serie di finanziatori pubblici, ma solo quelli che hanno acconsentito a dire sì, rendete pubblico il mio finanziamento, gli altri invece c'è la privacy. Non dovrebbe essere tutto invece trasparente come in America? Sì, su questo credo che non si dovrebbe neanche discutere. Tra l'altro io sono personalmente contrario al finanziamento pubblico della politica e quindi sono molto favorevole al finanziamento privato. E però naturalmente il finanziamento privato deve avere delle regole molto precise, la principale delle quali evidentemente la trasparenza, nel senso che ciascuno di noi deve poter sapere chi paga chi, quanto ha pagato. Però devo anche aggiungere che, detto questo, secondo me noi, proprio insomma, come opinione pubblica, abbiamo sempre un po' di, passiamo sempre un po' da un estremo all'altro, no? Perché appunto contro il finanziamento pubblico sono credo il 99% degli italiani, sì. Però poi quando si va al finanziamento privato tutti urlano al lobbismo. Su questo sì, c'è un po' di ipocrisia e di schizofrenia. Diciamo, no, ma questo sì. Ma lo dice lo stesso D'Alema, dice: avete abolito il finanziamento pubblico, ora si criminalizza il finanziamento privato della politica. E che dobbiamo fare? Poi un altro discorso ancora andrebbe fatto sull'utilità, ma questa è una battuta, cioè sull'utilità di queste fondazioni, perché adesso gli italiani europei pubblicano una rivista, fa molti convegni anche di livello internazionale, eccetera. Ma ci sono altre fondazioni la cui esistenza viene scoperta dalle persone comuni quando c'è un pasticcio, non quando c'è un convegno, ecco. Sì. Vabbè, una rivista prestigiosa, attento Rondolino, che D'Alema la definisce prestigiosa la rivista. Vabbè, io ho detto solo rivista, adesso non voglio esagerare. Prestigiosa, come il vino, ottimo. A proposito, Emiliano, lei che è pugliese, ma è buono questo vino di D'Alema, l'ha mai assaggiato? Non l'ho mai assaggiato. E come è umbro, è umbro, non è pugliese. Ah, non lo fa lì in Puglia? No. Mannaggia. Ma D'Alema non è pugliese, D'Alema ha sempre vissuto a Roma. La Puglia era un possedimento di D'Alema. E chissà perché io pensavo. Chissà perché lo facesse lì? Pensavo lo facesse. No. È umbro, ma non l'ha mai assaggiato? No, non l'ho mai assaggiato. Non l'ha mai assaggiato. Vabbè, mi dica almeno se imbarazza. Lei prima ha detto una società è coinvolta, avrebbe. In realtà è una cooperativa. Non so se non l'ha detto perché la imbarazza un po' questa cosa che le cosiddette cooperative rosse finiscono un po' negli scandali. Non mi imbarazza per niente, nel senso che io con le cooperative ho un rapporto identico alle altre società. No, però sono cooperative cosiddette rosse perché si. No, vengono messe cooperative, poi devo dire che sono quasi tutte rosa o rosatello per stare sul vino. Ah, ecco. Nel senso che adesso cerchiamo di non essere in malaffare, si veste da pulcinella se è necessario, pur di dialogare con i napoletani, si veste da brighella, insomma fanno qualunque tipo di mascherata pur di entrare nelle grazie di qualcuno e riuscire ad avere dei vantaggi dal punto di vista economico. Ma non è che le società individuali o le SBA sono si comportano diversamente. I pubblici ufficiali, i sindaci nello specifico, devono fare attenzione a tutti, devono fare attenzione a non infilarsi in tunnel come quelli nei quali è caduto il sindaco di Ischia, perché ovviamente ogni giorno c'è qualcuno con un cappio che tenta di acchiappargli un piede o una mano. Fare il sindaco 10 anni a Bari, come è successo a me, sì, è stata un'esperienza, diciamo così, sensoriale, nel senso che fare il sindaco al sud per 10 anni senza ricevere un avviso di garanzia e senza avere un problema non è propriamente uno scherzo, perché succede letteralmente di tutto. Ora, al sindaco di Ischia io non so che cosa sia accaduto, l'accusa è gravissima. Sì. E io mi sento tradito soprattutto dal sindaco di Ischia, perché è una persona che ho conosciuto, è una persona, diciamo così, alla quale avevo, come si fa in questi casi, offerto la mia solidarietà da amministratore. Vabbè, però non emetta la sentenza. Lei che no, però se dovesse essersi verificato quello che si dice, la cosa è gravissima, nel senso che ci sono migliaia di sindaci in Italia che si battono come dei leoni, ve lo garantisco, per 4 soldi senza neanche essere pagati, in moltissimi casi, gestiscono somme enormi, perché chiaramente ognuno sindaci e si comportano bene. Ovviamente lui in questo caso, se dovesse avere commesso il fatto, ha tradito tutti questi suoi colleghi, ha tradito anche tutto il Partito Democratico. E se dovesse essere accertato, certo, si è comportato male se dovesse essere accertato. Allora io mi fermo e vi ringrazio, Michele Emiliano, ricordo, candidato al PD alla Regione Puglia, e Fabrizio Rondolino, giornalista, grazie per soprattutto l'augurio di querela da parte di Woodcock, speriamo non arrivi, e neanche a te ovviamente, speriamo non arrivino più. Dopo la pubblicità avremo ospite invece il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, perché succede una cosa strana, cari ascoltatori, che la legislatura è finita al 31 marzo, ma in attesa delle prossime elezioni i consiglieri non lavorano, ma percepiranno lo stesso lo stipendio. Ma come? Vabbè, tra poco. Allora, cari ascoltatori, chi mi segue durante la rassegna stampa sa che io do le notizie, quelle che ci fanno un po' arrabbiare, invitando a tenere le mani strette sul volante se ci seguite. Questa è una di quelle classiche notizie di quel genere lì, se siete ancora in macchina e se ci seguite, perché succede alla regione Liguria, per la verità succede in tutte le regioni, mi risulta. Adesso parliamo della regione Liguria perché è emersa questa vicenda. I consiglieri sono di fatto decaduti, cioè la legislatura è finita. 5 anni dopo il 29 marzo di 5 anni fa, il 29 marzo la legislatura è finita, solo che si voterà a maggio, il 31 maggio. Succede che in questi 2 mesi, da marzo a maggio, i consiglieri regionali liguri, pur non riunendosi, non possono più per legge fare nulla, riceveranno lo stipendio per 2 mesi. Saluto il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Michele Boffa. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. La posso chiamare ancora presidente? Sì, è decaduto. Sì, no, mi deve chiamare ancora presidente, formalmente. Mi deve, va bene, presidente. Senta, nel senso che non sono ancora in funzione. È ancora in funzione, ma è vera questa cosa? Cioè, i consiglieri non si possono riunire più per legge perché sono decaduti di fatto, la legislatura è finita? In realtà non è esattamente così. Diciamo che in questo periodo cosiddetto di prorogazio i poteri sono attenuati. Attenuati significa che svolgono le assemblee legislative soltanto attività straordinaria legata a provvedimenti urgenti e indifferibili. Che però non ce ne sono? Ce ne sono? Potrebbero. Non essercene. Certo. Diciamo che formalmente se non ci sono provvedimenti se ne stanno tutti a casa. A casa non è corretto. Comunque non si riuniscono in assemblea legislativa né e in le sembra, commissione. E le sembra normale che prendano 2 mesi di stipendio? No, chiedo scusa. E capisco la provocazione. Allora, intanto c'è da dire che noi subiamo, le dico, pensavo di essere già pensionato, no? Sì. Noi subiamo una norma nazionale che quest'anno ha prorogato in sostanza di due mesi, allontanato di due mesi la data delle elezioni. Beh, perché... subiamo, però lo stipendio c'è, ecco, adesso capisco. No, lo stipendio ci sarebbe per altri, quelli, scusi, non è poi, mi scusi. Ah, dice non sarebbe uno spreco, no, perché sarebbe subentrato già qualcuno a prendere lo stipendio. Mi consenta. Sì. Allora, i consiglieri regionali hanno una durata determinata dalla legge statale in 5 anni, sì, salvo i casi di scioglimento anticipato. Ora, questi 5 anni vanno da elezione a elezione, esatto, come legislatura. È per questo che siete scaduti, scusi se uso questo termine, il 29 marzo. Difatti la legge prevede che prima del compimento dei 5 anni vengano indetti i comizi. Okay. No? E comunque, anche in quel caso lì, supponiamo, un consiglio regionale non può deliberare negli ultimi 45 giorni di quei 5 anni. E questo però, no, ma dal punto di vista della legge è tutto chiaro, Presidente. Siccome hanno spostato le elezioni, c'è un regime di prorogazio. E peraltro lei dice, se avessero fatto le elezioni il 29 marzo, ma adesso, ci sarebbe un altro consiglio regionale, lo stipendio andrebbe ad altri rispetto a noi. Però non ho ancora capito, gli italiani faticano a capire come mai dei consiglieri che di fatto, a parte cose straordinarie, non lavoreranno nei prossimi 2 mesi, prenderanno lo stipendio. Questa è una cosa che... Sì, capisco, ma è un discorso di... Allora, intanto non è vero che non lavorano, e oltretutto l'ufficio di presidenza, la giunta lavorano come sempre. Quindi ci sono presidenti, componenti ufficio di presidenza e assessori che svolgono l'ordinaria amministrazione come sempre. Mm. Il problema è quello dell'assemblea legislativa. Appunto. Che non può che convocarsi per atti che possono essere variazioni di bilancio urgenti, cose straordinarie. E perché prendono lo stipendio? Prendono lo stipendio perché? Perché per un principio di continuità funzionale ed è una norma costituzionale, non può esserci un periodo di vacatio. Ecco. Quindi in sostanza la continuità funzionale dell'organo deve garantire che fino all'insediamento di quelli che saranno eletti ci saranno, non decadano i precedenti. È la vacatio, termine latino per dire non ci può essere una mancanza, un vuoto. Quindi insomma tutto, ma infatti guardi che dal punto di vista dei giornali, Il Secolo XIX, Il Corriere, nessuno l'ha messa dal punto di vista, come dire, è una ruberia, però la mettono come dire è una stranezza, ecco, cioè nessun italiano se decade da un posto di lavoro prende lo stipendio per altri 2 mesi, ecco. Sì, allora diciamo così che tra le stranezze che molti imputano al governo Renzi, per carità, io sono del PD, è il mio segretario, ma tra quelle stranezze c'è anche quella di aver stabilito con la legge di stabilità che noi che eravamo pronti ad andarcene quando si doveva, rimarrete per la prima volta abbiamo una proroga di 2 mesi. Però mi dica anche questo, Boffa, è vero che nello stipendio ci saranno anche i rimborsi chilometrici, che ci sono ovviamente per chi si sposta, ma anche se uno non si sposta, cioè capisce, se non ci sono sedute straordinarie e non ci sono sedute, ci sono le indennità con anche i rimborsi chilometrici, magari uno se ne sta a casa in questi 2 mesi. Ecco, in realtà noi dal 2012 non abbiamo rimborsi chilometrici. Però non voglio negare che ci sia qualcosa a cui lei fa riferimento. Abbiamo una indennità di carica e un rimborso forfettario che è legato al ruolo istituzionale che ha un consigliere. Ah certo, se uno non so è presidente quindi di commissione. Quindi io sono presidente e quindi ho diritto a un rimborso forfettario che implementa l'indennità di carica che è uguale per tutti in relazione al fatto che sono presidente dell'assemblea legislativa. Mi dica, Boffa, per concludere, quanto è il suo stipendio netto? Cioè, quanto gli rimane in busta paga alla fine del mese? Sono su 8.000 euro, poco più di 8.000 euro. Netti, naturalmente questi. Chiedo scusa, quegli 8.000 euro sono 8.000 euro netti che ho in busta paga e sono omnicomprensivi. Naturalmente sto parlando, sono il presidente dell'assemblea legislativa, quindi come immagina sono quello che ha il netto più alto. Quindi 8.000 sono 16.000 in questi 2 mesi che prenderà per colpa della vacatio. Sì, esatto. Va bene. Non posso mica negarlo, d'altronde. Le ho detto le cose come stanno. No, ma infatti, ma come i giornali come, hanno raccontato. Non... Per me, come per tutti gli altri, ripeto, è omnicomprensivo, quindi copre tutte le spese che un consigliere ha. E voglio dirle, quindi trasferimenti, non ci sono ma questo è chiaro, ci mancherebbe, è già un gran bello stipendio, 8.000 euro. No, per carità, non mi lamento, io sono un ex insegnante, quindi... Capisce che quattro insegnanti non fanno il suo stipendio. Esatto, quindi, ha perfettamente ragione. Poi tenga conto che ciascuno di noi ha una quota che non piace magari agli ascoltatori che dà il partito. Udire, esatto, che dà il partito. E non possiamo neppure difenderci da quel punto di vista lì, perché proprio noi casta e i partiti, come magari anche nell'occhio del ciclone, forse non fa neppur piacere sentir dire che diamo anche quale dei soldi. Vabbè, lo fate. Intanto la ringrazio, Presidente, grazie per essere stato con noi. Michele Boffa, per la vacatio, i consiglieri regionali prenderanno 2 mesi lo stipendio in attesa dei nuovi, anche se non possono riunirsi Regione Liguria, ma succede in tutte le regioni. Lavoratori, cari lavoratori, stanno arrivando tantissime mail a 24 mattino e radio24.it per raccontarci il vostro lavoro. Certo, sto ancora pensando alla vacatio, no? La vacatio che il nostro presidente consiglio regionale ha detto non si può avere una vacatio, cioè un vuoto legislativo tra il consiglio regionale decaduto e il successivo, e quindi rimaniamo in carica e prendiamo lo stipendio anche se non possiamo, tranne per atti straordinari, riunirci. Ma oggi voglio salutare colui che ci ha mandato una mail straordinaria ed è Alberto. Buongiorno Alberto, buongiorno. Sì, ciao Alessandro. Sai cos'è la vacatio? Sapevi della vacatio dei politici? No, io mi intendo più di vacche da lati che non di vacatio, per cui infatti... no, è un'altra, diciamo che è un'altra cosa. Ho intuito cos'è la vacatio, ma mi intendo più di vacche da latte. L'assist era perfetto, più esatto, di vacatio di vacatio. Alberto, esatto. Ci ha scritto una mail fantastica dicendo: io vi ascolto tutte le mattine mentre mungo le mie mucche frisone. Esatto. Anche in questo momento no, le hai mollato? No, un attimo. In questo momento no, abbiamo già finito. Diciamo che certo. Ci alziamo, abbiamo in comune una cosa, ci alziamo presto tutti e due al mattino. Io mungo, tu vieni in radio, insomma, e vabbè, quindi la verità, tu lavori, io no, ecco questa, no, lo dico io, non ti preoccupare. E tra l'altro sabato e domenica, come mi hai fatto notare, esatto, tutti i giorni dell'anno, le mucche non è che a Natale le mucche, esatto, non hanno bisogno di essere, esatto, munte. Ma che bello, ma l'allevatore, come mai questa cosa? Perché, come mai? Tanto perché la mia famiglia è sempre stata una famiglia di agricoltori, per cui la tradizione prosegue, ecco, insomma. Abbiamo sempre allevato vacche da latte e abbiamo la campagna, quindi coltiviamo i campi e raccogliamo i prodotti per le vacche da latte. Fantastico. Quante sono le mucche? Quanto ci vuole a mungere una mucca e quante ne avete? A mano, allora, a mano. Allora, guarda, noi mungiamo, siamo un piccolo allevamento, ne mungiamo circa 90 e per ogni vacca di solito ci si mette 4-5 minuti. Poi dipende dalla produzione di latte, insomma. E una vacca in media quanti litri dà? Allora guarda, le vacche fresche che sono nella prima trattazione producono anche 50-60 kg di latte al giorno. È un allevamento intensivo, per cui producono questi litri di latte, ecco. Beh, fantastico. E ovviamente tutto a mano, ma è un lavoro... No, gli animali non a mano, perché 50 di latte sono tanti, per cui ovviamente c'è la sala di mungitura con i gruppi di mungitura e viene munta, noi le raggruppiamo, dobbiamo soltanto attaccare il gruppo, poi viene fatto una parte del lavoro, è automatica. Ovviamente quando c'è scritto hai detto di chiederci di salutare, e lo facciamo, sì, tutti gli allevatori ovviamente, che ci ascoltano. Sai che ci sono anche tutte queste polemiche, per carità, non voglio entrarci tutta questione, le questioni quote latte, mi dici la tua, così Alberto, da allevatore. Diciamo che sono finite ieri, oggi è un giorno nuovo. Di certo non mi sembra che abbia favorito gli allevatori, anche insomma. Probabilmente ha fatto lavorare tribunali, avvocati, sindacati, ma temo che abbia favorito tutti tranne che gli allevatori. O probabilmente ha favorito chi ha smesso e ha venduto le quote e quindi ha preso un po' di soldini, mentre invece noi che abbiamo proseguito abbiamo dovuto pagare le multe e comprarne per poter continuare la nostra attività. È un lavoro ovviamente faticoso, come ci hai detto, 365 giorni l'anno, 366 quando è bisestile, al freddo, sotto la pioggia, beh, magari al coperto, ma freddo, caldo, qualsiasi condizione, è un lavoro che vive ancora, cioè che si tramanda, che i giovani fanno? Guarda, allora, senz'altro sì, occorre un sacco di passione, altrimenti non lo faresti. Però vedo che ci sono un sacco di giovani che comunque proseguono l'attività della famiglia e probabilmente in questo momento di crisi molti giovani si avvicinano all'agricoltura. Questo è vero, questo è vero, l'ho letto e i dati confermano questo, c'è un ritorno alla terra, esatto. Diciamo così, è confermato, ma è rischioso secondo te da chi magari lo fa buttandosi con un animo magari romantico e poi scopre che non è poi così? Oddio, bisogna sempre fare le cose con un minimo di testa, ovviamente bisogna partire un attimino d'agio, soprattutto per chi non ha una tradizione familiare e non ha i terreni, quindi partire piano piano, però soprattutto in agricoltura, magari con poco terreno, facendo culture specifiche, serre, eccetera, sì, secondo me si può riuscire. Ecco. Si può riuscire. È ovvio che la zootecnia con edifici, costruzioni particolari molto grandi, eccetera, è un po' più complicato partire da zero. Beh, è chiaro, questo sì. In conclusione, Alberto, tu hai un piccolo difetto, e questo lo devo dire, ce l'hai scritto nella mail, e cioè che hai delle mucche frisone, che sono tutte di colore. Le frisone sono tutte bianca nera. Eccolo. È una cosa che hanno, quindi non possono cambiare questo. Il nome cromatico che da 4 anni a questa parte va abbastanza di moda. Vogliamo comunque bene alle mucche juventine, che dobbiamo fare, insomma. E io l'unica cosa che ti correggo, si dice vacche, non mucche. È più corretto la parola. Vacche. Diciamo, usiamo una parola, una via di mezzo, diciamo bovine, così siamo. Bovine o vacche. E vogliamo bene alle vacche juventine, che dobbiamo fare. Alberto, ti ringrazio e mando e rinnovo un abbraccio a tutti gli allevatori d'Italia. Intanto ci rinnoviamo a domani 6:30. E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. 24 mattino.